Mamma drona che è? Mamma drona dov'è? Mamma drona che fa? Mamma drona che dice? Ogni giovedì dalle 12 alle 13. Mamma drona. Musica, parole, racconti, favole. E buongiorno a tutti e tutte, come ogni giovedì dalle 12 alle 13 Mamma Drona, sono le 12.35 quindi con un evidente ritardo, ma comunque con sempre, non lo so, evviva. Comunque, scusate la confusione, volevo dire che oggi Mamma Drona parlerà di mare, parleremo della privatizzazione delle spiagge, di quello del referendum del 12 e il 13 giugno e di tanto altro. Iniziamo con una canzone delle Zeppelin. Came into the wide blue yonder. Through all the stages I wandered. The dawn girl of the excitement gang. Mona Lisa. Come l'inizio di Mamma Drona di oggi andiamo ad ascoltare una canzone di Paolo Conte, Onda su Onda. acqua gelida, qua nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda il mare mi porterà alla deriva, balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. Sara, ti sei accorta stai già danzando insieme a lui, con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Stupenda l'isola è. E allora, rieccoci di nuovo a Mamatrona e abbiamo un compagno di Ostia, ci senti? Sì, vi sento, buongiorno a tutti e tutte. Allora, visto che questa puntata è dedicata al mare, parliamo un po' di questa iniziativa, riprendiamoci le spiagge, la prossima sarà il 18 giugno, appunto dalle 15 alle 18, e per capire un po' bene che cosa avete fatto in questi mesi e cosa significa appunto la privatizzazione delle spiagge e come la state vivendo appunto ad Ostia. Niente, allora, riprendiamoci le spiagge, è una campagna di comunicazione che fondamentalmente è arrivata in città il 20 maggio con il primo, diciamo, imbocco fatto ad uno degli stabilimenti più in, diciamo, della capitale, e è una campagna che sostanzialmente come primo punto e come elemento principale rivendica il libero e gratuito accesso alle spiagge come previsto da legge, perché appunto 56 stabilimenti su 59, quindi il 95%, non permette il libero e gratuito accesso come da legge. Come secondo elemento è sicuramente un attacco alla lobby dei balneari, che fanno profitti 300 volte più alti rispetto a quello che spendono, pagando delle concessioni demaniali bassissime. Il terzo punto è il vincolo paesaggistico. Non esiste che ad Ostia, come in altre parti d'Italia, non si possa vedere il mare quando appunto si costeggia la costa, una cosa che è impressionante, la quantità di cemento che abbiamo sopra le nostre spiagge. E allora su questi tre punti è partita una campagna che soprattutto nelle scuole e nella città ha tentato di comunicare questo messaggio, che è arrivato il momento di riprenderci le spiagge. E rispetto anche a tutte le novità che porta questo decreto sviluppo, come il diritto di superficie, ci è sembrato abbastanza azzeccato continuare su questo trend, e appunto il 18 giugno ci riprenderemo un'altra spiaggia di Ostia, che sarà una, diciamo, di quelle più segnalate rispetto appunto a questo discorso del libero e gratuito accesso. E volevamo sapere qual è la reazione delle persone rispetto a quello che state facendo e comunque anche a, appunto, alla privatizzazione proprio delle spiagge. Cioè, avete avuto comunque un consenso anche rispetto, allora, anche, diciamo, al flash mob, l'ultimo che avete fatto? Il consenso più o meno c'è rispetto soprattutto a chi usufruisce delle spiagge ed ha il problema appunto del, diciamo, di non avere un reddito alto, perché molta maggioranza degli stabilimenti più in ovviamente sono quelli che pagano 4.000 euro a stagione per la cabina, e di conseguenza bene o male non è che ci vedono a buon viso. Però per quanto riguarda invece tutta la cittadinanza, soprattutto immagino i giovani, i studenti e i precari, lo vedono con buon viso, perché sanno che appunto lo stato delle spiagge è abbastanza critico, e devo dire che anche molti commercianti, soprattutto quelli che hanno delle attività non sulle spiagge, la vedono come una cosa anche abbastanza positiva. Appunto è assurdo che sulle spiagge chi lavora paghi molto di meno rispetto a chi lavora in altri territori. Poi, detto questo, credo che l'elemento più interessante sia il fatto che è la cittadinanza che si sta attivando in questa campagna, e non soltanto circuiti di militanti, e quindi questi sono gli elementi più interessanti, anche perché appunto il diritto di superficie permetterà nuove cementificazioni sulle spiagge e nuove speculazioni, e questo è un po' chiaro a tutti, tant'è vero che oltre, diciamo, al flash mob del 18 giugno già è stata lanciata da una serie di associazioni e di realtà territoriali una grande manifestazione nazionale il 2 luglio in cui Riprendiamoci le spiagge parteciperà, aderirà e porterà anche, diciamo, quell'elemento di rottura che ci ha caratterizzato in questo periodo. Bene, ti ringraziamo, e sicuramente il 18 giugno ci saremo e vi appoggiamo. Ti ringraziamo di tutto, un grande saluto, e ti dedichiamo a te e a tutti quanti la prossima canzone di Ivano Fossati, Questi posti davanti al mare. Grazie a tutti e a tutte. Adesso cambiamo, andiamo su Tom Waits, Sea of Love. My love, to the sea of love. adesso ritorniamo a una canzone italiana, una voce femminile, una delle più belle mai esistite. Una canzone del 1983 scritta da Enrico Ruggeri, Loredana Bertè, Il mare d'inverno. Alla TV e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. Sola a cercare un caffè. Tim Burton, perché non mi ha fatto cantare? Pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a... E grazie a Loredana Bertè che è qui con noi. Ciao Loredana. Ciao a tutti. Tim Burton, fammi suonare. Nessuno a trascinarmi via. Ora cambiamo ancora completamente, andiamo a sentirci i Beach Boys con Surfing USA. Yeah.

E adesso passiamo invece a Chumbawamba, Salt Fair, North Sea. Quanto il mare ci piaccia, perché ci riguarda l'estate, ci piace l'acqua, ci piace il sole, ci piace divertirci, in realtà il mare è anche un luogo di passaggio, che per i Fenici era il luogo della vita e dei traffici, per Omero e Virgilio era il ritorno a casa o la conquista di una casa. E il mare è uno sfondo, è un luogo di movimenti, è un luogo di incontri e di scambi, che sono una ricchezza, devono essere visti come una ricchezza. Invece purtroppo questo non accade, e diciamo che il Mediterraneo è anche un luogo di morte, purtroppo. Infatti dal 1988 fino ad oggi le persone che sono morte per raggiungere l'Europa attraverso il mare sono 17.627, che è un numero incredibile, non se ne parla. E per questo non dobbiamo pensare al mare solamente come un posto dove c'è gioia e felicità, ma anche dove c'è tristezza, perché un sacco di persone perdono la vita per cercare di avere una vita migliore in altri paesi che non sono i propri. E adesso ci sentiamo gli Assalti Frontali con la canzone 30 miglia dal mare, perché ci dobbiamo ricordare anche che al di là del nostro mare ci sono un sacco di guerre ingiuste. A 30 miglia dal mare, Assalti Frontali. Voi nella notte, nel silenzio della notte, farate due o tre colpi. Ma voglio dire, ci pensate? Salti parla su tutte le bande, sul cielo rovesciato della Serbia, la terra urla ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno fino a qui al non ritorno a 30 miglia di mare, e il mio nome è senza nazione, l'ora più importante, se viene sarò il disertore, il sabotatore, quale strada mi risparmia dalla scelta infame di votarmi all'assassino migliore. Dagli assalti parla, la terra urla ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno fino a qui al non ritorno. E ragno salti sotto questo tuono cupo, un pensiero bandito, ribella il tuo dovere e alla tua arte di obbedire, perché il bene a volte è solo il modo in cui si fa chiamare chi è più forte. Nella guerra umanitaria l'invenzione buona, l'occasione per regnare sulla polveriera della storia, un inganno da morire aprile, da non dimenticare, guerra da manuale, quando più nessuno ha più un'alternativa all'Europa bianca che mette finalmente ordine in cantina. Peccato per le vittime, uno sbaglio che facevano lì tra tante bombe in cerca di bersaglio. Radio assalti passa, la terra urla, ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno fino qui al non ritorno. A 30.000 di animali, di animali. Bimbo, finché ti credi in salvo, il tuo benessere qualcuno doveva pur pagarlo, a distanza di gommoni a 30 miglia di mare, puoi anche andare in cita lì a guardare che effetto fa morire, riempi le collette collettive, capi spendono miliardi per tutte le bombe, le rovine, ora è tardi, dormi tranquillo, la propaganda culla il tuo cervello, fai ciao l'aereo parte ogni notte nel vento della morte, domani avrai dimenticato il nome di quell'assurda regione, ma la guerra rimane nel buco di un millennio speso a riparare ogni frontiera artificiale, nell'odio sceso dentro le coscienze umane, la guerra chiede sempre il conto a chi rimane, e oggi faccio il mio dovere, il sabotatore. La terra urla, ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno, ogni giorno, al non ritorno, qui al non ritorno, a 30 miglia di mare. Radio Assalti parla. Quale strada mi risparmia dalla scelta infame? Quale strada mi risparmia dalla scelta infame? Sarmi all'assassino migliore. Agli assalti sotto questo suono cupo, un pensiero bandito, oggi faccio il mio dovere. Il sabotatore, la guerra chiede sempre il conto a chi rimane. La guerra chiede sempre il conto a chi rimane. E ora cambiamo argomento e genere musicale, ascoltiamo una canzone del 1977 di Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, una metafora che riguarda il pensiero e la capacità e la possibilità di espressione che abbiamo tutti, che forse, e anzi senza nessun forse, vuole essere tolta. Com'è profondo il mare, Lucio Dalla. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni correlati di vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare, come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale, come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si vibrò consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. E allora adesso invece parliamo di un altro argomento con una compagna, mi senti? Sì, buongiorno a tutte. Ciao, allora volevamo appunto avere qualche delucidazione rispetto ai due primi quesiti, quelli che riguardano l'acqua, per cui si andrà a votare il 12 e il 13 giugno. Allora sì, beh, facciamo informazione. Allora, innanzitutto le due schede relative ai primi due quesiti, quelli sull'acqua, saranno una scheda rossa e una scheda gialla, Forza Roma innanzitutto. E praticamente saranno, il primo quesito in particolare si concentra sulla richiesta di abrogare il provvedimento che prevede la privatizzazione, il passaggio alla gestione privata del servizio idrico integrato. Quindi, essendo appunto il nostro referendum abrogativo, il primo quesito chiede di abrogare appunto la norma del decreto Ronchi che prevede il passaggio a una gestione privata di tutti i servizi pubblici ritenuti di rilevanza economica, quindi non solo l'acqua, ma anche per esempio la gestione dei trasporti pubblici o la gestione dei rifiuti. Quindi se è possibile dire se si abroga, se si vuole abrogare si scrive sì, se non si vuole abrogare si scrive no. Per quanto riguarda invece il secondo quesito, quello un po' più complesso, è quello che riguarda la possibilità che ha il gestore di fare profitto sull'acqua e sul servizio idrico integrato, ovvero di poter acquisire una remunerazione degli investimenti anche se gli investimenti non vengono poi effettivamente svolti. Questo significa la possibilità che ha già il gestore adesso di chiedere un 7% in più sulla bolletta dell'acqua per appunto questa remunerazione degli investimenti, anche se non c'è nessuna possibilità da parte del... E allora abbiamo perso la linea, ci ascoltiamo una canzone e intanto cerchiamo di riprendere il contatto con la compagna. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snots running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aquilon. eccoci, perché era caduta la linea. Ci senti? Eccoci. Sì, allora possiamo continuare appunto dal secondo quesito, che era dove eravamo rimaste. Quindi va bene, appunto, no, semplicemente stavo dicendo che il secondo quesito, che è quello che riguarda la possibilità del gestore di fare profitti sull'acqua, ovviamente se si vuole abrogare questa norma si vota sì, se si vuole mantenere lo stato di cose presenti si vota no. Ero arrivata più o meno qui, spero che mi abbiate sentito. E quindi questi sono i due quesiti presentati dal comitato referendario un anno fa. Questi sono i due quesiti su cui si andrà a votare, riguardanti l'acqua bene comune, ma non solo, perché come dicevamo prima, ripubblicizzare o meno i servizi ritenuti di rilevanza economica significa appunto una questione molto più ampia, che riguarda anche la gestione di altri servizi che ci sono nel nostro paese. Quindi questo per quanto riguarda i quesiti, per un'informazione precisa e puntuale delle cose. Quindi innanzitutto questa è la questione riguardante i quesiti. Poi non so, ditemi voi. E poi volevamo sapere, in realtà, anche facendo un parallelo, per non soffermarci solamente sull'Italia, anche quelle che sono state dagli anni, cioè gli anni 90, ma soprattutto anche ultimamente, delle diciamo lotte sia in Colombia che appunto in Bolivia. Beh, diciamo che questo referendum arriva in Italia, questo sull'acqua, a 10 anni dalla guerra per l'acqua di Cochabamba. E quando appunto in Bolivia il governo boliviano dei tempi voleva privatizzare il servizio idrico anche lì, e quando ci fu una rivolta di popolo grandissima della comunità di Cochabamba contro appunto la privatizzazione da parte della Bechtel dell'acqua. Questo avrebbe addirittura comportato per i boliviani, oltre che di pagare bollette altissime e quindi di escludere praticamente questa grande maggioranza della popolazione dalla possibilità di accedere al servizio idrico, anche di privatizzare addirittura l'acqua della pioggia. Perché? Perché l'acqua, tutta l'acqua di quel paese, che avrebbe attraversato quel paese, sarebbe diventata proprietà di una multinazionale privata. E, per fortuna la popolazione si ribellò a questa decisione del governo, e dopo giorni e giorni di scontri tra la popolazione e le forze dell'ordine il governo tornò indietro dalla sua decisione. Per la prima volta nella storia appunto un governo rescisse il contratto con una multinazionale e aprì un varco enorme per tutte le battaglie contro la privatizzazione che poi si svolsero in tutto il Sud America in generale. Ma insomma, diciamo che quello che si può dire è che forse da quella guerra per l'acqua di Cochabamba partì in generale una grossa mobilitazione a livello mondiale in difesa dei beni comuni. Sempre brevemente invece si può raccontare la storia della Bolivia, della Colombia, che invece 2 anni fa tentò di fare un referendum per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua. E invece quello che accadde è che il governo di Uribe, nonostante avessero raccolto i cittadini 2 milioni di firme addirittura, molte più di noi, impedì questo referendum, lo svolgersi di questo referendum, impedì la libertà democratica dei cittadini di esprimersi e di decidere su una questione così importante come l'acqua, dicendo che appunto se avessero fatto il referendum e per caso avesse vinto la voglia di ripubblicizzazione dell'acqua, questo avrebbe bloccato gli investimenti del mercato privato nel paese, e quindi avrebbe bloccato in qualche modo lo sviluppo del paese. Questo è quello che è successo in Bolivia, e questo è quello che è successo in Colombia. Questo per fare anche un parallelo e anche una cronistoria di da dove viene insomma il movimento per l'acqua bene comune, che comunque viene anche da lì. In questo momento siamo sotto osservazione, perché ovviamente tanti sono i paesi che guardano a quello che accadrà in Italia il 12 e 13 giugno, dove si voterà su questioni così importanti. Solo per citarne altre di questioni importanti, la Francia e Parigi e Berlino hanno appena ripubblicizzato l'acqua il servizio idrico integrato nelle loro città. Quindi insomma il segnale che ci arriva dal resto del mondo è questo, ne prendiamo atto e l'invito è sicuramente quello di andare perlomeno a votare il 12 e 13 giugno. Allora, noi ti ringraziamo sia per la delucidazione rispetto ai tuoi quesiti, ma anche per la panoramica europea e latinoamericana, e appunto l'invito che facciamo tutte noi è anche appunto quello di andare a votare. Ti ringraziamo e pure a te. Grazie. Ti dedichiamo la prossima canzone, che è dei Jethro Tull, Aqua Long. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. In the cold sun, watching as the frilly panties run. Hey, Aqualung, feeling like a dead duck, spitting out pieces of his broken luck. Hey, Aqualung. E dopo Aqualung ci sentiamo dei Paragons con Island in the Sun. This is my island in the sun, where my deeper has all been done. I may sail on a better sea, the shore will always be home to me. Ora ci sentiamo i Ramones con Rockaway Beach. It's dopo una vittoria a pari o dispari? Ho vinto, quindi ci sente sole e mare degli statuto. Agosto prendo la lambretta, metto sullo zaino, sono pronto per viaggiare. Invece non va più la testa, solo Marco Bruno può partire insieme a me. Sole, mare, ma che caldo fa. Sole, mare, ma che caldo fa. Saremo in tanti, Rimini ci aspetta, pochi soldi in tasca, mi bastavano però la lambretta. Ho fuso a Piacenza, mi sono speso tutto per poterla rispedire. Sole, mare, ma che caldo fa. Sole, mare, ma che caldo fa. Dormiamo in quattro dentro una stanzetta, con il sacco a pelo, l'acqua, le caviglie e poi facciamo solo una via dal giorno, niente di contorno, ma ci divertiamo assai. Vamos alla playa, cantiamo noi Ligueira, che siamo di Torino e sulla playa ci abbronziamo. Sole, mare, ma che caldo fa. Sole, mare, ma che caldo fa. La notte nostra quanti bei locali, al bandiera gialla non ci fanno neanche pagare. Vestiti giusti, scooter, non ci canti, ballano i 60, ci trasmettono in TV. Ora facciamo dieta, forse obbligata è vera, la fame ci divora, qualcuno svenirà, fuori dall'ospedale, tutto può si farà. Sole, mare, ma che caldo fa. Sole, mare, ma che caldo fa. Tutti al mare, la versione di Gabriella Ferri, però ovviamente, cioè, tutti al mare sì, però prima andiamo a votare il 12 e 13 giugno, mi raccomando. Ci, appunto, tutte le mammatrone vi salutano, ritorniamo ciao. Il prossimo ciao. Giovedì, sempre dalle 12 alle 13, sempre su Radio Onda Rossa 87.9. A mostrar le ghiaccio. Yeah.